24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Eccoci dal Ministero con il Ministro Carrozza, pronta a leggere questa password attesa in tutti gli istituti scolastici per la prima prova d'esame quest'oggi. Ministro. Eccoci, 64 WLM I3Z 2G T D Y T M S U J A Z U Q è tutto chiaro, no? È tutto chiaro, no? Cari ascoltatori, avete capito la password nell'era della semplificazione? Sentitela, la password nell'era della semplificazione. M S U J A Z U Q E Y H. Ecco, no, ecco, chiarissimo. Ripetiamolo un'altra volta. È tutto chiaro, no? La password per accedere agli esami di maturità nell'era della semplificazione. T D Y T M S U J A Z U Q E Y H. Mamma mia, ragazzi. Ecco, come... Cioè, sì, verrebbe da dire che insomma, chiudiamo baracca e burattini. Nell'era della semplificazione, questa era la password snocciolata anche con un pizzico di incertezza dal ministro all'istruzione il giorno degli esami di maturità. Una password chiarissima che tutti avranno avuto modo di segnare. E vabbè, questa è 24 mattino, iniziamo così, con questo sorriso che ci ha fatto strappare questa cosa che sentiremo ancora. Questa è 24 mattino, come detto c'è sempre Alessandro Longori qui in redazione, c'è sempre il nostro alpino Peter Bescapè, io sono Alessandro Milan, siamo tutti qui, siamo pronti. Sì, non c'è la contraffine per me, Milan sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pirla così lavori in radio, e il mondo va così. Vabbè, pazienza. Pazienza, voglio salutare subito Mario Adinolfi, buongiorno. Pazienza, va buongiorno. Ma dove sei, Mario? Anzi, per la precisione, buonasera, sì. Sono all'Octavius Tower del Caesar Palace. Hai visto il film La Notte da Leoni? Come no, il primo, il secondo, il terzo. Ma il primo, La Notte da Leoni, il primo è. No. Adesso è uscito il terzo, guarda, vai a vederlo che è divertentissimo. Tu l'hai sentita la password? Saluto anche intanto Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno Maurizio. Ciao Alessandro, ciao Mario, ciao a tutti. Hai sentito Mario la password del ministro Carrozza nell'era della semplificazione? Ho sentito, molto divertente. Saluto Maurizio, intanto l'Italia è sempre l'Italia, più la vedo da lontano più mi diverto. L'era della semplificazione. Risentiamo com'è la 64 password. 64 sì. W L M I 3 Z 2 G T D Y T M S U J A Z U Q E Y H. Non ce l'ho fatta, Maurizio, non ce l'ho fatta neanche stavolta. STQM, sono pazzi questi miei. Sì, non ce l'ho fatta manco questa volta, ero lì con la penna, giuro, poi... No, non ce l'ho fatta manco questa volta. Vabbè. Allora, apriamo il nostro Parlamento, perché sì, possiamo aprire ufficialmente il Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Va bene. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, okay. Continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Eccoci qua, ci siamo proprio tutti anche oggi. Allora, indovinate dai giornali, i giornali su di cosa parlano, Maria Adinolfi, è la notizia di cioè la giustizia e Berlusconi, tutti è una cosa... Ho visto, i giornali li ho già visti, l'iPad, grazie a Dio, vi ha già sfornato le varie prime pagine, insomma, non mi aspettavo niente di diverso, insomma, no? Quindi, la giustizia e Berlusconi, tutto nuovo, insomma, è così. Da vent'anni? No, dico tutto nuovo, la giustizia e Berlusconi. È tutto nuovo, sì. Tutto una novità da vent'anni, una cosa che dura da vent'anni. Sì, sì, vabbè. Maurizio, che dobbiamo dire? Adesso non entriamo nel merito della questione, io veramente mi scoraggio. Che dobbiamo fare, Maurizio? Finirà? Questo punto si vedrà in Cassazione. Si vedrà in Cassazione. È l'ultima cosa che resta. Sì, l'avvocato Coppi, a cui Berlusconi ha affidato le sorti del giudizio, del terzo giudizio sulla vicenda, ha già detto che comunque il tema trattato ieri della Corte Costituzionale sarà riaffrontato inevitabilmente, ha ragione, sì, è un sì. tema che non può non essere trattato, anche lì, oltre a tutto il resto ovviamente del ricorso che fa parte del lavoro di un avvocato. Sì, certo, ma siamo alle solite, adesso si discute se il governo debba cadere o no. Se... Su questo lo stesso Berlusconi ha detto parole... Ha detto di no, sì, vero, sì, va avanti. Sì, va avanti, io appoggio Attenzione che Repubblica ha il retroscena, vabbè certo Repubblica con Berlusconi dice questo è il baratto, Berlusconi dice voi mi votate contro la decadenza del Senato e io fino a quel momento sosterrò il governo Letta. Ti pare possibile Adinolfi visto lì dal Caesar Palace un baratto ma del genere? Insomma sull'ineleggibilità il Parlamento ha votato 6 volte, non credo che... è stato eletto 6 volte e Berlusconi non si è mai posto la questione dell'ineleggibilità, quindi questo dato che è quello più immediato non credo sia il passaggio problematico di questa vicenda. Il passaggio problematico avverrà quando e se la Cassazione dovesse confermare l'interdizione dei pubblici uffici con Berlusconi che decade da senatore e la scelta di Berlusconi a quel momento. Io sono convinto che dipenda tutto da lui. Cioè, lui può decidere, qualora anche dovesse essere dichiarato, diciamo così, incompatibile con i pubblici uffici, potrebbe fare Beppe Grillo. Io sono convinto che Berlusconi sarebbe un Beppe Grillo molto più efficace, cioè, fuori dal Parlamento, esce dal Parlamento, con in mano le televisioni. Potrebbe essere un Beppe Grillo molto, molto efficace. Io sono molto preoccupato da questo, per questo speravo che questa questione giudiziaria si risolvesse. Il Berlusconi esterno al palazzo è una cosa che cioè, capito, Adinolfi è uno di quelli che dice ma basta, piuttosto salviamolo giudiziariamente. No, io dico chiaramente. Così almeno basta. Doveva fare una scelta politica, tanto ha fatte tante scelte politiche, insomma. Quindi dobbiamo evitare questo guaio, questo è un guaio. Chissà se faranno tutti come Gasparri che ieri a Mario Adinolfi, a Radio Yes, ha detto dimettiamoci tutti se lo condannano, se sentiamolo. Un sistematico massacro giudiziario di Berlusconi, del tentativo di espulsione dalla vita democratica di Berlusconi, di questo stiamo parlando, non di altro, sbaglia calcolo. Mi auguro che tutto questo non accada, se accadesse e noi dovremmo dimetterci dal Parlamento. Oggi Battiato risponde al Fatto Quotidiano, ricordate quello delle puttane in Parlamento, Battiato dice ho sentito uno scemo dire ci dimettiamo tutti, ma fatelo, che farse terribili, Maurizio Tortorella, fatelo, ti pare possibile che si dimettano tutti in blocco, anche se poi hanno smentito, eccetera. Ma che cos'è sta cosa, ci dimettiamo in blocco? No, non la credo come un'ipotesi probabile, né possibile, francamente. Sarebbe l'Aventino più grande della storia dell'umanità, non credo. Ma non lo so. E mentre invece l'ipotesi di Adinolfi mi pare assolutamente plausibile. Cioè Berlusconi che esce dal Parlamento. Perché no? Accetta questa cosa, se va a finire così in Cassazione, esce dal Parlamento, ma lì allora poi non ha l'immunità sulle altre cose. Certo, non ha l'immunità, questo è un altro problema. Va detto peraltro che prima che, se anche la Cassazione decidesse per la condanna, prima di farlo decadere dalla carica ci vorrebbe un pronunciamento della Camera in cui risiede. Del Senato, certo. È per quello che lì ci sarebbe il baratto, voi non me la fate fare e io sostengo il governo. È lì che si innescherebbe il baratto di Berlusconi, secondo Repubblica. Comunque, allora, la questione è questa. Io ho letto dei giornali, i politici in Sicilia utilizzavano i fondi per i disoccupati per andare, tra l'altro, con un giro di squillo. Spunta anche Sara Tommasi, scrive il Fatto Quotidiano. Poi Firenze. Mario Adinolfi, Firenze, è un giro di squillo incredibile. Il Fatto Quotidiano scrive l'assessore e la ex escort rumena, amore mio, SMS... Metto insieme queste due cose e dico che in Italia ho capito che cosa fa girare tutto e non sono i soldi, credo. Cioè, è sempre così. Cioè, dove giri, la rigiri, trovi sempre un unico argomento, no? Sono le due cose che fanno girare. Cioè, i soldi passerina, queste sono le due. La passerina, però i soldi fanno girare come, Milan? Sì, fanno girare, sì, sì, fanno anche girare. Le 5 Stelle fanno girare, quindi figurati. Ah, ecco. Dappertutto fanno girare. Sì, ma è tutta una roba di escort, tutta una roba politici, escort, imprenditori, escort, tangenti, escort, questo squidio. Veramente chi se ne frega, però. Cioè, questa è la cosa più allucinante. E beh, ma usavano soldi, usavano soldi pubblici, pare, per esempio in Sicilia, no? I soldi per i fondi per i disoccupati li usavano per andare, no? Con le squillo, pare. Io studierei tutti i fondi pubblici che sono stati dati ai partiti, ai consigli regionali, ai gruppi regionali, come sono stati spesi in Italia negli ultimi 20 anni, e non mi metterei veramente a preoccuparvi del giro di squillo, guarda, perché sono talmente tanti i soldi, sì, e spesi in maniera talmente ignobile che la squillo ci sembrerebbero qualcosa di, insomma, sì, di divertente alto. Sì, solo che lo so, tanti, Libero tanti, titola tanti così, tanti Libero, il bunga bunga sbarca in Sicilia, prostitute ai politici pagati coi soldi per i disoccupati, sistema inquietante sul fatto, tangenti, squillo e Sara Tommasi, questo sempre in Sicilia. E poi Maurizio Tortorella, c'è Firenze, c'è questa vicenda di Firenze, attenzione, sai chi sta arrivando a Firenze forse, chi ha fatto domanda per essere trasferita come procuratore capo a Firenze? Firenze, Maurizio? Rutko. No. Ilda Boccassini! Appena sentito che c'era qualcosa di strano su quel fronte, ha detto voglio andare a Firenze. È una delle 50 magistrati che ha fatto richiesta per essere trasferita come procuratore capo. Va in pensione tra poco il procuratore capo di Firenze. Va lì la Boccassini. Che gli fa a Renzi la Boccassini? Beh, vedremo. Ipotesi divertente, ma Libero ci fa una pagina, Renzi e le escort, ora Ilda punta alla Toscana, chi lo sa, insomma. Comunque tu, Maurizio, su questa vicenda anche tu pensi che siano due le cose che fanno girare noi abbiamo mondo? Dedicato un po' di pagine ovviamente al sexgate toscano, abbiamo parlato anche di un sexgate leghista Lombardia, i lettori, cioè, è vero, il tema del paese che va a put è abbastanza diffuso purtroppo, e non è certo né edificante né commendevole. Ma ieri avevamo il senatore Bitonci della Lega che vogliono legalizzare la prostituzione, a parlarne. Questo è noto, lo stesso Bruno Tinti che è un ex magistrato di molto di sinistra e ha scritto sul Fatto Quotidiano un articolo molto interessante sullo stesso tema. È un portato dei tempi, ma non c'è niente di male in quello. È che purtroppo la politica e il sesso Fanno a braccetto. Assolutamente a braccetto. E forse i magistrati, anche con Silvio Berlusconi, hanno capito che quello è un tema che funziona dal punto di vista mediatico, e questo è molto maligno. Eccolo qua, l'ho trovato, pagina 74, scambio di accuse sessuali tutte leghiste. Mannaggia. Sì, abbiamo fatto un po' di analisi. Ma quelli ce l'hanno duro, d'altronde, si sa. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, dai, che poi dobbiamo rientrare con la segreteria telefonica. 24 mattino. Caro Milan, volevo proprio dirle che lei è un corvaccio del malaugurio. Mai, mai una buona notizia del tipo questa notte l'esercito italiano ha invaso la Svizzera, risolvendo i nostri problemi. Ma si dia da fare, dunque! Io sono una vecchia nonna di 67 anni e sto pensando che un pelo del pube di Berlusconi vale più delle teste bacate di certi governanti che predicano di lavorare per il bene del paese e in effetti gonfiano solo le loro tasche. Non ci abbandonare, Silvio. Credo che il vero problema del Movimento 5 Stelle sia il fatto che si siano visti accreditare tutti quei soldi. Cos'era lo slogan? Uno vale uno, ma insomma vabbè, tutte minchiate. Il fatto sta che appunto alla fine si sono rivelati uguali agli altri, insomma. Mila, sono il babbo di una ragazza, piccola imprenditrice, che ha aperto un locale. Questi maledetti bastardi l'hanno fatta indebitare fino agli occhi, non ha avuto nessun vantaggio, agevolazione per i giovani. Poi ha chiesto una pedana da mettere fuori, è 3 mesi che aspetta una risposta, 3 mesi. E il comune di Firenze, questi maledetti bastardi, burocrazia di merda. Ma ci vorrebbe un'apposita commissione che stabilisce quali sono i giornalisti militanti e quelli d'opinione. quelli militanti si potrebbe tranquillamente raddoppiargli l'IRPEF e quindi forse non ci sarebbe bisogno di tassare le puttane. Per reperire i nostri miliardi forse sarebbe il caso di rivedere il contratto per gli F-35. Sono nauseata dalla faccia tosta di Bersani, che ha il coraggio di riprendere a parlare dopo tutti i fallimenti subiti. L'unica speranza è Grillo, nonostante tutto io continuerò a votare Grillo, oppure aumenterà l'astensione. Allora, Grillo sì, Grillo no, Grillo sì, Grillo no, vabbè, qui abbiamo, bella quella idea, Mario Di Nolfi e Maurizio Tortorella. Mario, l'idea dei giornalisti, quelli militanti, gli raddoppiamo l'IRPEF, tu sei un militante? Era interessante. Tu sei giornalista militante? Rischieresti tu, Mario? Io sono giornalista d'opinione, notoriamente, che come militante non piaccio molto diciamo all'area di riferimento in cui mi ritrovo, insomma, sono stato sempre visto un po' troppo come eretico, diciamo. Tassarli, tassarli. Credo di appartenere ai giornalisti d'opinione, sembra. Tu, Maurizio, se rientreresti in questa categoria da tassare doppiamente? Sì, per l'IRPEF, perché aumentiamola serenamente. Vabbè, non c'è problema. Allora, cosa ti... Maria Di Nolfi, tu che hai sempre guardato ai grillini con grande fascino, eccetera, hanno perso la testa? Questo è pare che la senatrice Gambaro abbia detto è nazismo della democrazia, è nazismo informatico quello per cui sono stata cacciata. Il problema molto chiaro è uno solo, l'inadeguatezza di questi 164 parlamentari, che sono purtroppo poca cosa. Io continuo a credere che il progetto di Grillo, e che in realtà è il progetto di Casaleggio, a cui Grillo ha fatto da megafono, ha una sua forte capacità di essere inserito nel tempo in cui viviamo, cioè le sue teorizzazioni sul ruolo della rete, su quello che dovrebbe essere la democrazia, sul passaggio dalla democrazia diretta alla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta, secondo me sono cose vere, serie, insomma, su cui il consenso non è banale. In più c'è l'ondata antipartiti e antisistema che ha sicuramente legittimazione politica, perché tantissima gente, basta ascoltare la tua segreteria telefonica, la pensa in quella maniera, quindi sì. Ora tutto questo ha portato però 164 vincitori di lotteria, perché questo è stato insomma in Parlamento. Il metodo di selezione della classe dirigente di Grillo è stato drammaticamente sbagliato e ovviamente adesso c'è questa asilo Mariuccia danno la responsabilità a Grillo, ma secondo me la responsabilità primaria è di questo gruppo parlamentare un po' scellerato che non fa altro che parlare di scontrini e espulsioni con tutti contro tutti e soprattutto con il fattore denaro che pesa tantissimo. Sì. Insomma, evidentemente l'asilo Mariuccia lo definisce Di Nolfi. Vabbè, ma qua abbiamo Maurizio Tortorella, figurati con i grillini, no? Basta accenderlo e via Maurizio, vai, dico. Non aggiungo una battuta se non a quello che dice Di Nolfi, è perfetta la lettura. Credo che abbiano perso la testa per il denaro, fondamentalmente. Per siano, ovviamente, questo è evidente, la formazione politica di questa pattuglia di eletti è di una evanescenza rara. Beh sì, l'inesperienza è dalla loro, questo sì, l'hanno detto. L'inesperienza ci sta per tutti, ma è anche la preparazione che è mediamente molto bassa, poi in realtà ci saranno anche quelli che invece sono preparati. Sì, forse si sta ritorcendo contro questa idea di portare 163 persone che non sapevano nulla, ma ho capito, tutti i 163 a un certo punto tutti spaesati come una comitiva che dicono dove andare. Comunque noi avremo oggi Roberto Fico alle 8.30, Presidente della Commissione Vigilanza RAI, sarà il nostro ospite. Vi devo salutare, vi devo ricordare che la copertina di Panorama è una bella inchiesta sul processo alla sigaretta elettronica, un qualcosa che interessa 2 milioni di italiani più o meno, e quindi con questo ringrazio Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama. Maria Di Nolfi, tu di che parli alle 8? Ma che fai? Conduci da lì? Alle 8 ma c'ho la Biancofiore e poi Cooperlo, quindi una puntata scoppiettante. Ma che dall'America, fai? Conduci da dall'America, questa cosa. Capito? C'è sta il Caesar Palace, conduce, io sono qua sveglio alle 5, ma lui ha capito tutto della vita, ma insomma, ma vai al diavolo, questa è la verità. Anzi, segnati carta e penna, segnati la password del ministro Carrozza, domani me la devi ripetere in onda. 64-WLMI3Z2G-STDYTMSUJAZUQ

22 ore al giorno dentro un bagno non credo sia una condizione dignitosa, dice Oninno ai parlamentari che lo vanno a ricevere. Ho fatto domanda di trasferimento per poter vivere in una condizione più umana e dignitosa, mi hanno risposto di no. Evidentemente per l'amministrazione va bene così. Leggo molti libri e racconta, insomma, i detenuti nel carcere duro. Leggo e guardo la TV. Ho chiesto di essere trasferito. Ho tre figli che hanno preso le distanze da me studiando. Ho una visita al mese dei miei familiari. Insomma, racconto anche del carcere duro, dove è stata aperta una vecchia sezione per lui, 22 ore dietro le sbarre, una visita dei parenti ogni mese. Così racconto sul Corriere della Sera. Va bene, siamo al momento del premio, il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile trovato sui giornali, con molta simpatia ovviamente. Oggi l'ho trovato sul Secolo XIX, in Australia, la rivolta della scollatura. Ci sono le polemiche perché il primo ministro Julia Gillard è stata criticata per mostrare troppo il décolleté. E allora le donne insorgono e mettono le loro foto osè online. Tra i detrattori del premier anche una giornalista: quel seno in vista in Parlamento è inappropriato. Ma insomma, amici, colleghi del Secolo XIX, che è uno straordinario giornale che leggo sempre ogni volta e spesso ne cito e ne trovo tante cose. La carta costa! La carta costa! La rivolta della scollatura contro il premier australiano e il suo décolleté. Va bene, oggi con simpatia avete vinto voi, il giornale radio. XXIV Mattino. Ci siamo alle 8:18 minuti, eccoci qua cari ascoltatori. Allora, vi ricordo che alle 8:30 avremo ospite il presidente della Commissione Vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, ma prima vogliamo partire da uno dei nostri classici che abbiamo seguito anche in passato, la questione degli abusi edilizi, i condoni edilizi. Voglio salutare il sindaco di Afragola, siamo in provincia di Napoli, Domenico Tuccillo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Lei buongiorno. È anche il vicepresidente del PD in Campania. È così. Allora, ieri sull'Huffington Post è apparsa questa notizia, cioè c'è una proposta di legge che è allo studio, state cercando di capire se depositarla con anche senatori e ovviamente in Parlamento, per, ecco, so che il termine è riaprire i termini del condono, no, però fare in modo che i comuni esaminino una serie di richieste che pendevano nel famoso condono che poi non è andato in porto per la campagna in passato. E perché, caro sindaco? Sì. Sì, buongiorno a tutti intanto, buongiorno a lei. Io mi fa piacere che abbia già fatto lei questa precisazione, se mi consente la preciso ancora meglio, nel senso che questa proposta nostra è nata in relazione alla necessità di risolvere, di dare risposta alle domande di condono che per la verità risalgono all'85 prima e al 94 dopo, quindi è una questione che si trascina da 30 anni e poi c'è l'ultimo del 2003 che in Campania non è stato, diciamo, attuato perché il governo si oppose. Allora, il primo punto è questo: noi abbiamo innanzitutto ci siamo posti il problema di chiudere la stagione dei condoni, non di aprire un nuovo condono, come dice la PDL e come dicono i rappresentanti della PDL. Ma chiuderla come? Esaminando però quelle domande. Sì, chiudere. E quindi, innanzitutto, obbligando i comuni ad esaminare e a dare una risposta certa a queste domande. Lei immagini che ci sono cittadini che, mentre noi parliamo appunto di riaprire i condoni, di discutere di questi argomenti, ci sono cittadini che aspettano da 20 anni, da 30 anni, ancora una risposta alla domanda di condono. Ma mi scusi, perché pende questa domanda? Cioè, perché nessuno ha risposto? Forse perché... Non è che nessuno ha risposto, è che le amministrazioni vanno con molta lentezza perché le ragioni sono molteplici, ovviamente, a volte la disamministrazione degli uffici, a volte i ritardi, a volte anche la volontà dei politici di non inimicarsi l'elettore che potrebbe andare incontro a una risposta però, negativa, e certamente non sono pochi. Però mi scusi sindaco, tra le domande da esaminare ci sarebbero anche quelle del famoso ultimo condono che in campagna non si è concretizzato. C'è anche questo, perché l'impostazione che noi abbiamo cercato di dare, che vorremmo dare perlomeno, è che mentre da una parte si obbligano i comuni a dare una risposta certa ai cittadini, nello stesso tempo, tenuto conto del problema come si configura, lei sa che in campagna ci sono circa qualcosa come più di 100.000 manufatti che si trovano in questa condizione, nella città che io mi appresto ad amministrare ci sono più di 1.000 manufatti in questa condizione, allora noi vogliamo offrire anche nella proposta che vorremmo portare avanti degli strumenti ai comuni per mettere in ordine e per riqualificare. Mi scusi sindaco, mettere in ordine e riqualificare non dovrebbe essere la risposta dello Stato, dire bisogna abbatterli. Perché lei, io capisco questa ragione, in punto di diritto non c'è dubbio dovrebbe essere nello stesso tempo io la invito solo a considerare che cosa significa oggi abbattere 100.000 abitazioni, cioè significa impegnare una finanziaria e significa creare ovviamente un problema di intervento non di poco conto. In uno stato ideale non dovevano nascere, non diciamo, dovevano queste... proprio nascere proprio, la logica dei condoni, come sa, è una logica che perlomeno come PD, con tutti i difetti del PD, questo almeno non ci appartiene, però è stata messa in campo e ogni volta che viene rilanciata dà adito ad una nuova proliferazione in questo senso. Per la verità appartiene un po' a tutti, è bipartisan politicamente. Ma insomma, noi condoni non li abbiamo mai approvati, i condoni edilizi siamo stati sempre contro, li hanno fatti sempre insomma. Ho capito, però mi scusi, allora secondo questa logica nei 20 anni che siete stati al governo come PD, come mai queste costruzioni sono sorte? Cioè, uno potrebbe dire. Questo poi riguarda le amministrazioni locali, il governo del territorio, dove sicuramente ci sono delle cose che non quadrano. Ora, noi ci troviamo di fatto in questa situazione. La nostra proposta in relazione ai piani di recupero riguarda soltanto alcune tipologie, questo io ci terrei molto a farlo capire, a sottolinearlo, perché altrimenti si fa confusione. Io mi rendo conto che è facile fare confusione, perché una cosa è dire facciamo il condono per tutelare l'abusivo tout court, un'altra cosa è dire facciamo in modo che i comuni possano fare dei piani di recupero laddove per esempio queste realtà sono sorte su zone agricole, terreni agricoli che non hanno per esempio vincoli paesaggistici, problemi idrogeologici. Cioè c'è abuso e abuso, insomma. Tenere queste condizioni, queste realtà in queste condizioni di anarchia totale, di disordine e anche di mancanza di sicurezza, e invece dare la facoltà al comune di pianificare e nella pianificazione prevedere, laddove appunto queste condizioni siano rispettate, la possibilità anche di rispondere alla domanda di condono, appunto, nel senso, in un senso anche positivo per i casi di maggiore incertezza, questo ci dà la possibilità di dare un minimo di risposta a questo problema in senso positivo, in senso costruttivo, accompagnato anche da norme sanzionatorie però molto dure. Io la vedrei sindaco Tuccilla a dire per me è un abuso, va abbattuto, però capisco che lei mi dice vabbè, ma questo quanto costerebbe, bisognerebbe, non ci sono i soldi. Ma guardi, le posso dire anche un altro aspetto del problema. Io adesso sono eletto da pochi giorni, no? Devo fare un piano urbanistico comunale, perché devo disciplinare. E ci sono mille case, ha detto. Come faccio? Mi dica lei, io le conteggio o non le conteggio? E se non le conteggio, so che ci sono 5.000 persone che hanno bisogno di un'abitazione. Allora io devo programmare una realizzazione di altre 1.000 1000 costruzioni, diciamo, familiari per ospitare in prospettiva. Tra le l'altro, sindaco, pagano quando lì, io già ce le ho in uno spazio che non mi crea problemi. No, ma è chiaro, però sindaco, lei ha detto che sono circa 1000 nel suo comune, ma pagano l'IMU questi? Qualcosa pure in più. Pagano l'IMU questi? No, in teoria, o sì? Pagano gli allacci comunali? Tra l'altro, appunto, mettere in ordine la questione dal punto di vista urbanistico significherebbe metterla in ordine anche dal punto di vista regolamentare degli oneri, perché loro non solo dovrebbero pagare appunto il condono, ma poi sarebbero appunto costretti a pagare come tutti i cittadini tutti i servizi che invece spesso e volentieri non pagano. Sì, però il messaggio dal punto di vista della legalità è che non è che i furbi alla fine ce la fanno in qualche modo. Io capisco perfettamente il problema. Il problema qua, in estrema sintesi, se vuole banalizzando, ma insomma non credo poi che sia così, il problema è volere l'optimum in senso astratto oppure cercare una soluzione che pragmaticamente ci consente, perché guardi, se no alla fine, le dico proprio veramente con molta onestà intellettuale, se mi consente, alla fine resta tutto come sta. Noi non muoviamo un dito e continuiamo a legittimare la violazione permanente della legge. Io su questo dico, ci vorrebbe un sistema nel quale proprio l'abuso non sorge neanche. Comunque su questo tema, sindaco, le prometto, torneremo, perché sai, è un tema che seguiamo con molta attenzione. Io nel frattempo la ringrazio. Domenico Tuccillo è il sindaco da qualche giorno, all'ultima amministrativa ha vinto a Fragola in provincia di Napoli, del PD, anche vicepresidente del PD della campagna. Vedremo poi se questa proposta di legge approderà anche in Parlamento. So che ne dovrete discutere, immagino, con i vertici del partito. Ci fermiamo 5 minuti. Tra 5 minuti sarà con noi Roberto Fico, il presidente della commissione vigilanza Rai. La Rai, secondo il presidente della commissione, che è anche un esponente del Movimento 5 Stelle. 24 mattino. Eccoci, sono le 8:32 minuti e con noi fino alla chiusura della trasmissione, alle 8:55, c'è il presidente della commissione di vigilanza RAI e l'esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, che saluto. Buongiorno e grazie per essere con noi. Salve. Allora, Fico, ci ha un pochino stupito molti leggere ieri la posizione che lei in maniera chiara ha detto: in questo momento vendere la RAI è un qualcosa che vorrebbe dire svendere la RAI, e si dice, ma come, uno dei punti del Movimento 5 Stelle è sempre stata la vendita per la privatizzazione della RAI, perché adesso no? In questo momento è impossibile, perché appunto sul mercato significherebbe svendere la RAI e noi la RAI non la possiamo mai svendere. Oltretutto la raccolta di denaro appunto che si ipotizzava erano 2 miliardi di euro, quando 2 miliardi di euro basta, nel programma c'è l'abolizione delle province in cui risparmiamo 2,5 miliardi di euro, basta chiudere i contratti con gli F-35 e quest'anno solo risparmiamo 4,9 miliardi di euro, oppure l'abolizione della TAV e risparmiamo 24 miliardi di euro. Sicuramente si può avviare una privatizzazione, ma in questo paese dobbiamo fare due leggi urgentissime, che è quella antitrust seria e il conflitto di interessi prima di vendere. Faremmo veramente peggio che meglio. Ecco, non è essere contro la privatizzazione, essere contro adesso, diciamo, essere contro adesso. Contro in questo momento, ma avviare invece un dibattito pubblico e un percorso serio. Senta, sul conflitto di interessi e antitrust adesso ci arriviamo, perché la materia è anche ovviamente molto delicata. Ma secondo lei, se 2 miliardi sarebbe svendere la RAI, quanto dovrebbe valere almeno sul mercato? Avete un'idea della cifra? Dobbiamo sicuramente risanare la RAI, e nel momento in cui facciamo un percorso di risanamento e di lancio vero e migliore sul mercato, a quel punto andiamo a vedere. Quindi non c'è una cifra in questo momento che ipotizzate? Non c'è una cifra da quantificare. Di certo 2 miliardi dice è svenderla. Assolutamente. La legge sul conflitto di interessi, sa che se ne parla da, voglio dire, lei quanti anni ha, Fico? 38. Più o meno, insomma, no, da un po' meno ovviamente, se ne parla soprattutto da quando Silvio Berlusconi è sceso in politica. Lei come la vedrebbe? È un tema molto complicato, ma in estrema sintesi cosa prevederebbe? Che ne so, che uno può avere una TV e non di più, due canali, come la vedete? Il conflitto di interessi, dobbiamo assolutamente svincolare il conflitto di interessi da Silvio Berlusconi o esclusivamente dalla concentrazione di TV. Il conflitto di interessi è soprattutto una dinamica che nel nostro paese si muove da sempre, dove sono coinvolti tutti, cioè sono i controllori che a volte sono mischiati con i controllati, sono persone che partecipano a consigli di amministrazione di società diverse che però sono collegate, e quindi è proprio un fatto di dividere soprattutto una commissione tra potere pubblico e potere privato in tantissime situazioni, e la raccolta e concentrazione di potere in alcune situazioni di mercato va assolutamente limitata. Quindi quando parliamo di conflitto di interessi non possiamo parlare sempre solo di Silvio Berlusconi, ma è tutto il paese che è in un conflitto di interessi permanente in tanti settori, e quindi va assolutamente messa a mano. Noi abbiamo iniziato un percorso, abbiamo presentato in affari costituzionali, ci sono il gruppo dei ragazzi dei deputati in affari costituzionali alla Camera dei Deputati che stanno elaborando la legge. Ma lei ecco appunto, cioè cosa per concretizzare, come potrebbe essere? Lei vedrebbe che un imprenditore, per esempio, può avere tot canali, tre canali, quattro canali, due canali nazionali? No, in che senso dei canali nazionali? E nel senso, come secondo lei ci devono essere dei limiti alla proprietà, per esempio? Sicuramente ci devono essere dei limiti. E quali limiti? Alla proprietà, alla concentrazione, un limite in percentuale, un limite alla raccolta pubblicitaria, un limite alla concentrazione di reti, assolutamente. E poi un limite soprattutto all'azionariato, cioè l'azionariato deve essere diffuso e deve essere diviso e deve essere partecipato, e quindi tu come imprenditore, soprattutto nel settore radio televisivo, secondo me non puoi trattenere una quota sia di raccolta pubblicitaria sia che di proprietà di televisione oltre una certa cifra. È impossibile, chiaramente. Risanare la RAI come si fa? Io so che settimana prossima ascolterete nelle prime audizioni il presidente della RAI Tarantola, il direttore generale Gubitosi. Per esempio, lei personalmente cosa chiederebbe, cosa chiederà al presidente Tarantola come prima azione da mettere in piedi in RAI? La prima cosa importante, noi faremo questa audizione appunto al presidente Tarantola e a Gubitosi martedì 25 giugno alle ore alle 20:30 sì. E tutti quanti potremo fare chiaramente una domanda. La domanda principale è che cercheremo di fotografare la RAI in questo momento, cercheremo di capire il piano industriale della RAI, cercheremo di capire, di comprendere il bilancio, e cercheremo soprattutto di comprendere che serviranno più di un'audizione sicuramente il piano industriale, quindi vedere tutte le azioni che sono state messe in campo per cercare di... Lei il suo punto l'ha già individuato, cioè il punto che vorrà chiedere alla presidente Tarantola l'ha già individuato? Sicuramente il piano industriale è molto molto importante, cioè soffermarci sul piano industriale triennale. C'è un pericolo Grecia per la RAI? Sai che in Grecia, come abbiamo letto dai giornali, insomma lì la TV pubblica e la radio sono state chiusi dal giorno alla notte per una questione di costi, e c'è questo tipo di rischio per i conti anche per la RAI, secondo lei? Devo dire la verità, non credo che la RAI in questo momento subisca questo rischio. Più che altro il rischio generale è che con le politiche di austerity in Europa, con la politica di questa idea di Europa, di questo modello di tenere in questo modo i conti, e quindi dal fondo salva stati al MES e così via, secondo me se non cambiamo proprio l'idea di politica europea rischiamo sempre di andare verso... proprio verso veramente una catastrofe, quindi dobbiamo proprio cambiare totalmente l'idea, l'idea di questa politica. La austerity dell'Europa ci sta portando in rovina, e la Grecia è uno di quei paesi dove invece le cose potevano essere fatte totalmente in un altro modo, la crisi era prevedibilissima e invece si sono intervenuti in maniera sbagliata e tardissimo. E quindi è quello il nostro problema. Cioè intervenire adesso, però non vede un rischio, diciamo, imminente, però se non si interviene... No, imminente alla RAI sì, però se non si interviene in tantissimi, non in un settore solo che è quello della televisione pubblica e di Stato, ma se non si interviene sulla politica che l'Europa sta facendo in questi anni. Pensa al fondo salva stati, noi diamo all'Europa 125 miliardi di euro come fondo salva stati, e poi quando abbiamo dei problemi noi chiediamo questi soldi indietro con gli interessi, e loro ce li danno con gli interessi. ed è, questi sono meccanismi che portano alla rovina totale. Cioè lei è contro il fondo salva stati? Quello... Assolutamente sì. Assolutamente sì. Senta, uno degli slogan che si sente sempre è via la politica dalla RAI, no? Intanto lei l'ha toccato con mano, cioè c'è qualche da quando è presidente della Commissione di Vigilanza RAI, capisce l'importanza della politica e dell'influenza anche sulle nomine, sulla RAI, le nomine dei direttori? Abbiamo iniziato da molto poco, ma non mi serviva essere presidente della vigilanza RAI per comprendere questo, ovvero l'organismo della vigilanza elegge 7 consiglieri di amministrazione su 9 e dà un parere vincolante per l'elezione del presidente della RAI, e quindi solo questo fa comprendere quanto la politica e quanto i partiti cercano di controllare la RAI. E questo è un male, è un male, è un male è per forza. È assolutamente un male, perché noi non possiamo pensare che una TV pubblica finanziata dai cittadini tramite il canone possa diventare una lottizzata come sempre è stata dai partiti, oppure pensare che la pluralità di informazione sia la priorità dell'informazione dei partiti. E però se lo prevede la legge, dice che la Commissione di Vigilanza RAI esprima dei pareri nelle nomine, e lì siete politici, cioè al di là adesso il movimento eccetera, ma lì sono politici che fanno delle nomine, quindi come può non essere così? Infatti, ed è proprio per questo che noi dobbiamo cambiare, dobbiamo iniziare e avviare un percorso anche di riforma legislativa attraverso il quale la politica non elegge più il 100% del consiglio di amministrazione della RAI, quindi cerchiamo di far levare le mani della politica e dei partiti dalla TV pubblica, che deve essere la garanzia dei cittadini. Chi lo dovrebbe leggere quindi, secondo lei, il CDA della RAI? Sicuramente potrebbe, al CDA della RAI potrebbe partecipare una parte delle persone, degli utenti che pagano il canone, una parte dei lavoratori RAI e una parte magari del Parlamento, però diviso in modo diverso. E poi l'azionariato della RAI diffuso potrebbe essere anche azionariato diffuso, ovvero fatto in percentuale comprato anche dai cittadini. Cioè, no, mi faccia capire il primo punto, cioè chi paga il canone della RAI potrebbe in qualche modo nominare qualcuno del CDA, cioè qualcuno dei cittadini proprio? Sì, qualcuno dei cittadini, assolutamente, delle persone che pagano il canone, chiaramente facendo una commissione di controllo con curriculum trasparenti e meritocratico. Ah, cioè si manda il curriculum e... Assolutamente, sì. Però la commissione di controllo sarebbe politica, no, in questo caso una commissione che sceglie per curriculum, non politica, sennò siamo sempre alle solite cose. No? Sennò siamo sempre alle solite, anche se già mandare il curriculum, avere un concorso pubblico, trasparente e meritocratico sul consiglio di amministrazione della RAI diviso in quote tra cittadini, dipendenti RAI e politica sarebbe un passo in avanti incredibile, significherebbe veramente dare potere di controllo di amministrazione ai cittadini e levarlo ai partiti. Senta, lei metterebbe un tetto per i compensi in RAI? C'è stata la polemica anche tra alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle e Floris, che ha detto io guadagno 500.000 euro, ma vorrei che lo si dicesse di tutto quello che... e poi quanto uno guadagna, ma anche quanto uno magari fa rendere come trasmissione in termini pubblicitari eccetera. Lei comunque vorrebbe che fosse tutto trasparente, cioè ognuno deve dire, siccome una TV pubblica, quanto guadagna? Sicuramente deve essere, siccome una TV pubblica è finanziata dai cittadini, assolutamente dei guadagni devono essere trasparenti, tutti. Pubblicati quindi, tipo su internet? Così. Sì, pubblicati, comunque devono essere noti e devono essere trasparenti. Assolutamente, dovrebbe esserci dai cittadini, chiaramente. E dovrebbe esserci anche un tetto massimo? Io credo che un tetto massimo debba esserci, in parte un tetto massimo già c'è, però non per i contratti magari chiamiamoli di spettacolo, ma per gli amministratori, però sicuramente ci vogliono secondo me anche dei tetti massimi. È chiaro che operiamo anche in un regime di concorrenza, però è vero anche che la RAI ha il canone, la RAI essendo un bene pubblico i profitti li deve secondo me solamente reinvestire e riuscire a pagare in modo sereno tutto il personale. A lei ha anche un'idea del tetto massimo, cioè un Bruno Vespa quanto può guadagnare? No, questo non me lo posso dire. Cioè, non lo può dire o non... Cioè, non lo posso dire, non ho ancora questa idea di Bruno Vespa quanto può guadagnare, ma non è Bruno Vespa. No, no, certo, ho fatto un esempio, se il tetto massimo vale per tutti, sì, nel senso, sì, era sì, per sì, rendere agli ascoltatori l'idea Bruno Vespa, Floris, Santoro, se fosse... La cosa davvero importante è creare la trasparenza massima su... Quanto sono i guadagni? Sicuramente. E allora facciamo così: andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Tra un minuto siamo ancora con lei, Roberto Fico, il presidente della commissione Vigilanza Rai. Parliamo magari anche del canone, una delle tasse più evase dagli italiani. Come magari si può contrastare questa evasione? Una delle tasse anche più odiate dagli italiani, il canone della Rai. Allora, siamo con Roberto Fico, presidente della Vigilanza Rai del Movimento 5 Stelle. Presidente Fico, sa che il canone della Rai, ci sono anche dei deputati che rivendicano il fatto di non pagarlo da anni, fanno questa battaglia. Lei cosa direbbe, cosa ne pensa di questi deputati? Di questi deputati? Io per esempio il canone lo pago. Allora, mettiamola così, al di là di cosa penso di questi deputati. Il canone... finanzia la televisione pubblica, quindi concettualmente il fatto che siano i cittadini di un paese a finanziare la propria televisione, secondo me è una cosa giusta. Modello BBC in Inghilterra, che finanzia i cittadini inglesi finanziano la loro televisione. Il punto è che la BBC in Inghilterra però non fa pubblicità e quindi non fa raccolta pubblicitaria. Quindi ritorniamo anche a un punto del nostro programma di una televisione di Stato finanziata totalmente dai cittadini. Senza pubblicità? Lei la vorrebbe senza pubblicità? Assolutamente sì, perché pubblicità e canone chiaramente in questo paese sono in un contrasto. Le riporto sempre l'esempio della BBC. Sul territorio inglese la BBC non fa pubblicità, ma fa solo raccolta di canoni, quindi finanziata totalmente dagli inglesi, mentre la BBC World fa anche la raccolta pubblicitaria. Noi in questo momento abbiamo il 70% delle attività della RAI che sono finanziate tramite il canone e il 30% sono finanziate tramite la pubblicità. Così però non porterebbe tutta la pubblicità ai concorrenti della RAI, e voglio dire, non per citare il solito nome, ma sappiamo uno dei concorrenti della RAI chi è. Assolutamente sì, però noi abbiamo detto che iniziando un percorso la nostra TV pubblica deve essere assolutamente pubblica, svincolata dai partiti, finanziata dai cittadini e senza pubblicità, e poi si può avviare quel processo di privatizzazione dopo aver fatto antitrust e legge sul conflitto di interessi, e quindi le altre reti RAI se le mettiamo sul mercato in momento in cui sono risanate, quindi non le svendiamo ma le vendiamo in modo serio, possono magari comprate da qualcun altro e non dai soliti attori noti del nostro mercato. A proposito di canone, mi dica la ricetta che non sia quella che sentiamo sempre: mettiamo il canone legato alla bolletta elettrica di cui si parla da 20 anni per contrastare l'evasione, oppure questa è la ricetta? In questo momento noi abbiamo il 27% di evasione del canone, più o meno. Punto. E quindi? La cosa principale, io non ho una ricetta specifica, per me in questo momento la cosa che mi interessa è che i cittadini si rendano conto che la RAI è una... si rendano conto che c'è un percorso per liberare la RAI dal monopolio dei partiti, perché a volte è chiaro anche che se la RAI sembra più un servizio a favore di partiti e non della cittadinanza, abbiamo anche una serie di persone che fanno un legittimo sciopero del pagamento del canone. Può essere legittimo, cioè con questo tipo di RAI, lei dice, insomma, qualcuno forse schifato non lo paga. Non dobbiamo dare adito a tutti una serie di cose, quindi se noi abbiamo una televisione davvero pubblica, abbiamo una televisione di qualità che diventa l'agenzia culturale principale del paese, la gente paga. La gente comunque è più predisposta a pagare. Ma invece contro l'evasione, cioè non ha al momento una ricetta che potrebbe essere, facciamo così. Sono cavilli, nel senso, potremmo fare in un modo e in un altro, però in questo momento io lavorerei tantissimo sulla riforma, qualità televisione. A proposito, mi faccia fare questa domanda, visto che voi siete molto attaccati alla rete, ma un bella diretta streaming dei CDA della RAI, lei non lo troverebbe giusto? Cioè che siano pubblici anche le riunioni del CDA? Io le dico che in questo momento in commissione di vigilanza RAI, anche all'addizione di direttore generale e la presidente Tarazza di martedì 25 giugno, sarà tutto quanto trasmesso sulla web TV della Camera, quindi in diretta, e sul canale satellitare, proprio per dare massima trasparenza e pubblicità ai lavori. Questo però c'era anche prima, ma chiaramente si deve chiedere. Il CDA della RAI che decide magari su Sanremo, no, quello sarebbe troppo. Cioè in streaming, in diretta streaming, cioè che tutti vedano quello che il CDA della RAI sceglie per i cittadini, essendo pubblica. Sarebbe sicuramente interessante. Tendenzialmente direi anche di sì, poi dobbiamo vedere che comunque è un consiglio di amministrazione, in questo paese si agisce comunque c'è anche una concorrenza chiaramente appunto con altre reti TV, potremmo però sicuramente chiedere di sperimentare queste forme di streaming, assolutamente sì. Senta Fico, abbiamo 2 minuti, intanto le volevo fare una segnalazione, c'è un sito che è il sito dove bisognerebbe pubblicare tutti i contratti di consulenza della RAI, che dal 2007 è così, lavori in corso, c'è una legge del 2007, glielo segnalo, contratti di consulenza.rai.it, è una battaglia che noi abbiamo portato avanti da tempo, perché dal 2007, legge Prodi, bisognerebbe mettere tutti i contratti di consulenza, sono anche quelli milionari, magari alle Star, a Sanremo, eccetera. È lavori in corso da quanto? 6 anni. Quindi glielo segnalo perché magari faccia una battaglia su questo, se può. No, perfetto, anche invito poi tutti voi o tutti i cittadini comunque a segnalare alcune cose che non vanno e che dovrebbero andare in un altro modo, perché dico a tutti che questa presidenza della vigilanza RAI, questo ufficio di presidenza sarà attentissimo e vaglierà ogni cosa. Dopodiché nell'ultimo minuto vi faccio fare una domanda invece di attualità che esula dal caso RAI, insomma il caso Gambaro di cui tutti parlano è questo, è stato giusto secondo lei di affidarsi alla rete con questi click e decidere l'espulsione della senatrice Gambaro? Noi abbiamo un codice di comportamento, nel codice di comportamento che tutti quanti abbiamo firmato c'è scritto che la rete decide in battuta finale sui casi di non uso più del simbolo, assolutamente, quindi sì, è come dire ho firmato che il mio stipendio si ridurrà del 50% all'elezione da parlamentare, che si rendi conto alla Diale adesso si restituisce, che i rimborsi elettorali non si restituiscono, e quindi quello abbiamo firmato e quello facciamo, perché se no se mettiamo in discussione tutto quello che abbiamo firmato ogni volta ce ne sarà sempre una nuova. Le chiedo questo nel concludere, nel ringraziarla, se sono finite le espulsioni a questo punto, perché oggi sui giornali pare che Grillo dice e Casaleggio abbiano chiamato gli altri, la senatrice Pinna eccetera, a dire fermiamoci adesso. Non ho ancora letto, però sicuramente sì, non vedo nessun tipo di problema all'orizzonte. Non mi piacere anche ricordare una cosa rispetto in a 20 secondi però se può grazie fa, e che il Movimento 5 Stelle tutte quante le cariche come la presidenza della vigilanza RAI rinuncia anche alla doppia indennità, cioè per esempio io come primo atto ho rinunciato a 27.000 euro all'anno come presidente di commissione, e questo è giusto, è giusto, è un bel segnale, è giusto che lo dica. Mi devo fermare Fico, altrimenti sforo. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, Roberto Fico, presidente vigilanza RAI. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it e ci ritroviamo domattina alle 6.30.